Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La primavera di questo 2013 è stata caratterizzata da una piovosità fuori dalla norma, con una media a marzo del 60% in più e punte fino al 30% in più del normale. Chiunque ha un orto in casa si è accorto delle difficoltà di iniziare i classici lavori di stagione, ma su più grande scala il maltempo sta comportando un generale stravolgimento delle pratiche agronomiche, con ripercussioni che, in particolare nel Veneto, le associazioni professionali agricole hanno già più volte denunciato. Si parla ad esempio di ritardo nei diserbi, nelle potature, nelle semine, nelle concimazioni del frumento e così via, senza considerare il rischio di marciumi alle radici a causa di ristagni d'acqua. Anche i consumatori ne risentono, perché le tradizionali verdure sono in ritardo e ai supermercati ad esempio si trovano quelle provenienti dall'estero. Un esempio solamente, proprio in questi giorni il presidente del consorzio del radicchio di Chioggia, Giuseppe Boscolo Palo, che è stato nostro ospite in trasmissione qualche mese fa, commentava i prezzi che sono ancora molto alti proprio del radicchio chioggiotto, e questi sono dovuti alla carenza del prodotto nei campi, una carenza talmente elevata che anche i prezzi alti, a suo dire, non sono sufficienti a colmare le perdite, per cui prevede appunto importanti perdite rispetto allo scorso anno. Ecco, per capire che cosa è successo e magari anche che cosa succederà, abbiamo pensato di sentire oggi Federica Checchetto, agrometeorologa presso il servizio meteorologico dell'ARPAV, e l'ARPAV, lo ricordo, è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Ecco, intanto benvenuto in trasmissione. Grazie, buongiorno. Ecco, entriamo subito nella questione. La prima domanda credo è proprio questa: cosa è successo e perché dalla siccità dell'anno scorso, che ci ha fatto parlare di problemi in agricoltura a causa della siccità, si passa adesso alle piogge abbondanti, che quindi siamo da un eccesso all'altro? Sì, in effetti nei primi tre mesi dell'anno ci sono state piogge frequenti e anche le temperature sono state basse rispetto alla media. Ad aprile abbiamo avuto anche verso la metà una ripresa delle temperature, sembrava appunto di essere entrati in primavera, invece poi siamo ritornati sotto la media. Le piogge che sono cadute quest'anno, in realtà soprattutto nella zona di pianura, sono state ben oltre, diciamo, il doppio di quello che accade normalmente, e la cosa particolare sono stati anche il numero di giorni piovosi. Infatti in quattro mesi o poco più ci sono stati oltre 60 giorni di piogge. Quindi cosa è successo? Le piogge hanno determinato anche ristagni in vari appezzamenti e soprattutto l'impossibilità di entrare per le semine. Infatti quest'anno si è entrati nel mese di aprile, solitamente nel mese di aprile sono già state effettuate, quindi ritardi nei periodi di semina, e poi con le piogge si sono attivate, soprattutto in marzo, si sono attivati tutte quelle malattie che caratterizzano le colture, malattie soprattutto originate da funghi e da batteri, e non c'è stata la possibilità di entrare in campo per effettuare i trattamenti, ovvero ci sono stati dei piccoli margini di qualche giorno tra una pioggia e l'altra. E quindi c'è un ritardo e anche la difficoltà poi di combattere un po' queste malattie, questi funghi. Sì. Le piogge hanno quindi compromesso le semine, quindi i periodi, certo, l'entrata per le lavorazioni e le semine, e hanno attivato tutte le varie malattie fungine che ad esempio lo scorso anno, ricorderemo appunto un anno secco, non abbiamo avuto problemi fitopatologici. Ecco, ma perché quest'anno che è iniziato in modo così diverso? C'è stato qualche motivo particolare? No, è un'oscillazione che può esserci dopo, soprattutto dopo un anno siccitoso, si tende alla compensazione, tuttavia ogni anno, diciamo, può essere una sorpresa. Certo. Lo scorso anno, già in marzo, eravamo in una criticità per quanto riguarda proprio le riserve idriche. In queste prossime settimane voi cosa pensate? Avete delle previsioni? Proprio... Abbiamo superato questa, stiamo entrando nella siccità oppure in un clima un po' più tranquillo? Allora, proprio le previsioni di oggi confermano l'arrivo di una perturbazione dalla Spagna, quindi condizioni di maltempo ancora per qualche giorno, insomma almeno fino a domenica e in particolare... No, ma intendevo poi nel periodo, nel prossimo periodo, mese. Prossimo mese, ecco, anche se c'è la possibilità con i modelli meteorologici di avere delle previsioni a livello stagionale, tuttavia per la nostra regione, che è così particolare proprio per la posizione geografica, quindi la presenza delle prealpi, delle Alpi, del mare, la vicinanza del lago, è molto rischioso fare delle previsioni stagionali, perché sono poco attendibili. Quello che possiamo vedere è che anche per la prossima settimana il tempo sarà piuttosto variabile, non abbiamo ancora la presenza di un anticiclone, quindi una certa stabilità. Certo, ecco. Quindi anche per l'agricoltura ancora un po' bisognerà pazientare per avere la possibilità poi di effettuare tutto quello che serve. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up. Too much light in this window, don't wake me up. Only coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, up, up, up, up. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up, don't wake me. Torniamo in linea con la trasmissione del quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del tempo piovoso di questo periodo e ne stiamo parlando con Federica Checchetto, agrometeorologica dell'ARPAV. Che cosa significa agrometeorologia? Agrometeorologia, ci si occupa proprio, partendo dalle condizioni meteoclimatiche e dalle elaborazioni che vengono fatte proprio sulla meteorologia, si cerca di dare un aiuto agli agricoltori cercando di integrare, diciamo, le conoscenze sull'atmosfera in modo che possano essere utili per la previsione anche e la programmazione delle attività agronomiche in campo. Quindi si cerca di integrare sia diciamo le previsioni meteorologiche, sia i dati che possiamo rilevare attraverso le stazioni. Quindi voi fate come ARPAV un bollettino agrometeorologico, non è un classico bollettino del tempo come quelli che siamo abituati, ma ci sono una serie di indicazioni e consigli su cosa fare, cosa non fare. Sì. Cerchiamo di seguire l'azienda agricola in tutte le lavorazioni, in tutte le applicazioni agronomiche che vengono svolte durante l'annata agraria, a cominciare dalle lavorazioni in campo, le semine, i trattamenti, i periodi più adatti per effettuare le raccolte dei prodotti e anche e soprattutto la cosa che così ci sta più a cuore, proprio il momento più opportuno per effettuare i trattamenti. Perché ricordiamo che trattamenti effettuati in dei periodi con la previsione di una pioggia possono essere completamente dilavati e non servire, quindi non essere utili. Noi cerchiamo di supportare con tutte le informazioni, anche degli strumenti a disposizione, di supportare gli agricoltori in questo modo. Voi redigete un bollettino, dove si può trovare e com'è organizzato? Allora, ci sono numerosi i bollettini che mettiamo, sono bollettini e servizi, diciamo, gratuiti, sono quasi tutti in internet, il sito, lo ricordiamo, è www.arpa.veneto.it e all'interno del sito internet c'è una sezione agrometeorologia. Il bollettino più importante si chiama Agromet Informa ed è un notiziario bisettimanale che raggiunge oltre 150.000 accessi all'anno della pagina web e abbiamo diviso il Veneto in 32 piccole aree in modo che appunto la produzione culturale fosse omogenea e nel periodo primaverile estivo il bollettino viene messo due volte alla settimana. Pensato per ognuna di queste aree? All'interno di ciascun bollettino abbiamo appunto previsto 32 piccole aree per seguire quasi a livello aziendale gli agricoltori e all'interno del bollettino ci sono varie notizie che possono appunto così permettere all'agricoltore di pianificare il proprio lavoro sia nel brevissimo periodo che magari per periodi un po' più ampi. Visto che andiamo verso la stagione estiva, l'ultima cosa che le chiedo, ci sono anche dei bollettini che pensate per la stagione turistica, quindi per le nostre coste e la montagna, che al di là dei bollettini generali, quindi anche magari suddivisi per aree anche in questo senso? Sì, all'interno del sito ARPAV sono presenti vari tipi di bollettino che vanno dal bollettino meteorologico vero e proprio ad alcuni altri bollettini riferiti alle coste o al lago di Garda come Meteo Garda e Meteo Spiagge. Quindi si possono trovare tantissime informazioni, quindi un invito anche ai nostri ascoltatori che non l'hanno ancora fatto ad andare a visitare il sito internet dell'ARPAV, quindi www.arpa.veneto.it. E la ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi. Passiamo adesso ad alcune notizie. Agricoltori amici di pipistrelli. È questo lo scopo del progetto Bat Box Casa Amica, nato dalla collaborazione tra il WWF e la Coldiretti di Rovigo, partito ufficialmente martedì 14 maggio. Le aziende agricole da Melara a Portetolle ospiteranno le speciali casette di legno, dette Bat Box appunto, per la colonizzazione dei chirotteri, ovvero i pipistrelli, di cui in Polesine sono state individuate 8 specie, 4 delle quali particolarmente rare. Il progetto servirà alla preservazione e all'osservazione scientifica e a testare la loro utilità contro gli insetti nocivi, ma anche a verificare l'integrità ambientale di cui i pipistrelli sono ottimi indicatori. Le Bat Box sono anche ecosolidali poiché sono state realizzate dalle falegnamerie di Carossa e Corte Guazzo, che sono cooperative sociali che operano nel campo della disabilità. Prima uscita pubblica per Agri Insieme, il coordinamento nato per dare voce unica al mondo agricolo e superarne la frammentazione sindacale, costituito nel Veneto da Confagricoltura, CIA, Fedagri Conf Cooperative, Lega Coop Agroalimentare e AGCI Agrital. si terrà venerdì 24 maggio all'Hotel Sheraton di Padova con inizio alle ore 17. Alla relazione introduttiva del coordinatore di Agriinsieme Giacomo Bonaldi seguiranno gli interventi dei rappresentanti di gran parte del mondo che ruota attorno all'agroalimentare, dalla distribuzione al credito, dall'agroindustria al terziario. La conclusione del convegno è affidata a Paolo De Castro, già ministro dell'Agricoltura e ora presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. E per concludere si intitola Di là dal fiume, il turismo rurale tra i grandi fiumi di pianura, un seminario organizzato da Veneto Agricoltura per approfondire il tema del turismo fluviale, un settore che sta acquisendo un rinnovato interesse grazie al riconoscimento da parte della società del valore economico, sociale, ambientale e culturale dei fiumi. All'insostituibile funzione idraulica si associano infatti nuovi servizi ecosistemici come la biodiversità, la fissazione del carbonio e il miglioramento del paesaggio. Ma anche escursionismo, cicloturismo e turismo fluviale incontrano sempre più l'interesse dei turisti che scelgono nuove destinazioni in contesti rurali dotati di qualità paesaggistiche ed ambientali. Di tutto questo si parlerà a Villa Cagnoni Boniotti in località Gognano di Villa Marzana in provincia di Rovigo martedì 22 maggio dalle ore 9 alle 13. Per partecipare all'evento sarà necessario registrarsi entro lunedì 20 maggio tramite il centro di formazione permanente dal sito della Regione Veneto. Informazioni sul sito www.venetoagricoltura.org, sezione convegni e seminari. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima. Riascoltateci se volete sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.